corpo mi lasciassi, se il peso delle prove mi spesasse, toderò. Se la realtà mi facesse paura, se questa montagna sembra impossibile da muovere con la mia fede, toderò. Se le mani alzate si staccassero, se non avesse altre canzoni, se la paura vincesse terreno, loderò, loderò, loderò il Dio fedele, loderò Elohim, loderò. Loderò, loderò il Dio fedele, loderò Elohim, loderò Adonai, loderò. Se la tristezza invade la mia anima, anche se la gioia non c'è più nel cuore, se dubita c'è della mia fede, loderò. Se la tempesta muove la mia barca, se la sua forza mi spinge, se l'altra riva sembra lontana, loderò. Se questo deserto mi sembra eterno, se non vedo la fine del tunnel, se il mio universo cade, se apre, loderò, loderò.